un tentativo di ostruzionismo che sono durati 24 ore. Abbiamo iniziato l'aula ieri mattina alle 9.30, abbiamo finito di votare i due provvedimenti di quesito referendario stamattina alle 9.30. Questa richiesta cosa chiede appunto? Chiediamo due versioni parimenti alle altre quattro regioni. Un quesito chiede l'abrogazione completa della disegno di legge Calderoli e un secondo chiede l'abrogazione parziale di questo disegno di legge. Questo perché ci sono dei dubbi da un punto di vista procedurale sollevati da alcuni costituzionalisti circa l'abolizione completa, e sarà poi dopo la consulta della Corte Costituzionale a valutare la validità dei quesiti. Gli stessi quesiti sono stati presentati e vengono discussi in questi giorni. Già lunedì la campagna li ha votati, oggi li abbiamo votati come Emilia Romagna, seguiranno la Toscana, la Puglia e la Sardegna e ci auguriamo anche altre regioni ovviamente. L'Emilia Romagna in un primo momento aveva intrapreso il percorso dell'autonomia differenziata. Che cos'è di diverso la legge Calderoli che insomma non vi piace? Di diverso c'è la mancata concordia con le regioni in conferenza unificata, quindi una scelta unilaterale da parte del governo di procedere, la contrarietà di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province Italiane, nonché una serie di questioni che sono legate più di merito al tema dei livelli essenziali delle prestazioni che sono rimandati a una fase successiva e comunque senza alcuna risorsa per nessuna delle regioni per poter parificare questi livelli essenziali delle prestazioni. Di conseguenza la scelta del governo di procedere a una legge cornice sull'autonomia differenziata va nettamente in contraddizione col percorso che la Regione Emilia-Romagna aveva fatto precedentemente e ovviamente ci siamo spesi e ci siamo impegnati per i quesiti referendari che a questo punto verranno inviati alla Corte Costituzionale assieme a quelli delle altre regioni. Una domanda riguarda proprio i prossimi passi. Quando le 5 o più regioni presenteranno alla Corte Costituzionale i quesiti, poi la Corte Costituzionale dovrà vagliarli, dopodiché cosa succederà? Dopodiché nel frattempo c'è anche la raccolta di firme popolare per quanto riguarda i quesiti referendari, quindi ci sarà una mobilitazione, diciamo così, generale circa questo disegno di legge. Una volta che la Corte Costituzionale avrà validato i quesiti, sia quelli nostri che quelli della iniziativa popolare, dopo verrà indetto il referendum che però sarà celebrato solo nella primavera del 2025.